voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Attilio Brambilla e Alfa Parf, prodotti per capelli in 4 continenti. Di Alessandra Scaglioni. Alfa Parf è un'azienda che produce e commercializza prodotti per capelli, nata nel 1980 in un garage a Vaprio Dad, alle porte di Milano, da due soci, Roberto Franchina e Alessandro Pirot, che dopo un'esperienza in una società del settore decidono di mettersi in proprio. Dopo circa 30 anni molte cose sono cambiate. L'azienda è una multinazionale da 200 milioni di euro, non ha accettato offerte di acquisto dai fondi, ma anzi proprio da un fondo di private equity ha acquistato una società. Alla guida ci sono il presidente Roberto Franchina e l'amministratore delegato Attilio Brambilla. Alfa Parf, Alfa è l'inizio, Parf erano nomi e cognomi dei due soci fondatori ed iniziano, come a volte si dice nelle nostre aziende italiane, nel box e nel sottoscala di una villetta. Per cui diciamo che è una visione decisamente familiare, tipicamente italiana, probabilmente delle vere e proprie piccole aziende, piccole unità che nascevano soprattutto, nascono ancora oggi, ma soprattutto in quei periodi, e che si è poi sviluppata nel tempo. Io stesso, che anch'io entro da subito, sono il classico universitario che al pomeriggio va a fare le consegne con la macchina dei pacchettini, divento poi socio nell'87, oggi siamo io e Franchina, i soci di questa società, Franchina presidente e amministratore delegato. Siamo sempre riusciti, non ultimo anche a convivere bene professionalmente parlando, perché lui si occupa di tutto quello che è l'ambito del business, per cui la parte commerciale e la parte industriale, io ho la parte amministrativa finanziaria. Il settore è quello dei prodotti per parrucchieri, conquistato attraverso due scelte precise. L'azienda lavora nell'ambito della grande famiglia della cosmesi, noi siamo nella nicchia dei prodotti per la cura dei capelli, prodotti tricologici. Da un paio d'anni abbiamo anche acquisito una società che produce prodotti per la cura del corpo. Direi che la scelta strategica fatta allora, due soprattutto, che hanno pagato, sono state: la prima, di partire subito anche con la produzione. Per cui, questo perché? Perché era molto più semplice creare una società che facesse della semplice compravendita, della distribuzione. Fu invece da subito come idea quella di portarci una piccola attività produttiva, è fatta in un box e possiamo ben immaginare quanto piccola fosse. Questa ha sicuramente pagato, perché ha dato a questa società autonomia, per cui noi non abbiamo mai dovuto dipendere da fornitori terzi, gli errori quando ci sono stati erano imputabili a noi e a nessun altro, siamo stati in grado cioè di governare il nostro prodotto. Questa scelta strategica, allora fatta ovviamente sul territorio nazionale italiano, è diventata ancor più importante quando abbiamo esportato il prodotto. La seconda scelta strategica è quella del canale professionale. Prima dicevo, nell'ambito della cosmesi, noi siamo nella nicchia della cura del prodotto di capelli, nella sottonicchia, se posso chiamarla così, del canale professionale. Per cui solo, volgarmente parlando, non me ne vogliono, il parrucchiere. Ovvero non abbiamo grande distribuzione, farmacie, profumerie, grossisti e quant'altro. Sicuramente forse potremmo dire che a livello di fatturato questo potrebbe aver ristretto un po' l'orizzonte per ovvi motivi. Va da sé che è stata una scelta che, ripeto, se non altro col senno di poi, ha sicuramente pagato. Noi abbiamo dato da subito e diamo tuttora al nostro cliente, il parrucchiere, questa garanzia di esclusività, per cui il nostro prodotto viene commercializzato solo attraverso il parrucchiere, e il parrucchiere di questa garanzia ci ha sempre riconosciuto come un elemento positivo. Negli anni Ottanta l'azienda lavora solo all'interno dei confini nazionali, con una rete di agenti sul territorio. Non ci sono grandi investimenti, ma una progressiva crescita che permette, dopo alcuni anni, di lasciare il box per una sede più ampia. Poi arriva la svolta. Inizi anni 90 abbiamo iniziato a esportare il nostro prodotto in tutti i sensi. Piccole esperienze furono fatte in Spagna e devo dire, lo dico io da amministrativo, per cui non da persona di business, mi aspettavo che l'azienda continuasse dicendo, non so, la Francia, la Germania, il Portogallo e quant'altro. E invece questo sicuramente è il terzo elemento di successo che posso raccontare oggi. Invece si è deciso, Franchina ha deciso di attraversare l'oceano. Per cui noi nel 93 eravamo in Venezuela e stavamo implementando il primo stabilimento produttivo. Negli anni a seguire siamo arrivati in Brasile, in Argentina. Insomma, abbiamo iniziato a coprire quello che sostanzialmente potremmo definire come il continente latinoamericano. L'America Latina è il territorio d'elezione per Alphaparf. In Europa la concorrenza dei grandi marchi era in quel momento troppo forte, mentre al di là dell'oceano c'era lo spazio per espandersi, una lingua e una cultura non così differenti. Ci siamo andati, oserei dire anche qui un po' stoicamente, noi con le nostre forze, nel senso che il concetto era proprio quello, l'ho fatto anch'io per quello che mi competeva, di prendere la valigetta, attraversare l'oceano e cercare al di là dell'oceano dei contatti. Alcuni erano dei contatti conosciuti da Franchina nella precedente esperienza lavorativa, altri erano contatti nuovi che proprio si facevano sul campo, e ricordo di persone che proprio come esperienza lavorativa venivano mandati, dico in Brasile per fare un esempio, e si fermavano magari 3, 4, 6 mesi proprio per conoscere il mercato. Abbiamo, se mi si passa il termine, proprio fatto un'attività di semina. Ecco, ci siamo proprio recati in prima persona in questi territori pressoché sconosciuti, cercando di capire prima il territorio, capire il mercato, capire le esigenze e vedere cosa noi potevamo rispondere a queste esigenze. All'estero Alphaparf va prima per vendere il prodotto esportato dall'Italia e poi dal 1993 fino al 1998 con una modalità precisa, fondando stabilimenti produttivi. Non abbiamo mai acquisito nulla, non abbiamo mai avviato partnership, per cui nella nostra esperienza non abbiamo mai avuto, come si suol dire a volte, il partner locale con cui intraprendere queste esperienze, per cui direi che è sempre stato un classico fai da te tipico dell'italiano. Qui inserisco anche un ulteriore elemento che nel tempo ha pagato, creando delle società locali, per cui noi non abbiamo mai posto qualcosa come, non so, un'attività semplicemente distributiva, non ci siamo, come dicevo prima, ancorati a degli importatori locali. In altri paesi l'abbiamo fatto, però in questi paesi no, per cui per esempio in questo decennio che va dal 93 al 2002 abbiamo creato quelle che oggi sono 23 filiali sparse nel mondo. Filiali per noi vuol dire società giuridicamente esistenti in quei paesi, per cui dotati di tutte le caratteristiche che hanno le società, per cui con dipendenti, con strutture, con organi che governano. La scelta di aprire stabilimenti produttivi in loco diventa fondamentale per la società. Noi dovevamo competere e dobbiamo competere con grandi strutture multinazionali, Oreal e Vella sono due nomi che penso conosciamo tutti, e dobbiamo competere con unità locali, per cui società ubicate in loco con delle produzioni in loco, per cui la tempistica per la fornitura del prodotto, i dazi doganali. Normalmente il settore cosmetico sconta dazi doganali abbastanza importanti, facevano sì che il nostro prodotto o non era presente quando doveva o quando era presente era aggravato di dazi importanti, per cui rischiava di essere fuori mercato. È stata una scelta, io ritengo, necessaria. Tante aziende, nostre concorrenti, non l'hanno fatto, continuano a esportare, il che ovviamente non ha nulla di sbagliato, però penso che noi abbiamo un discreto vantaggio competitivo in tutto ciò. Oggi per noi il continente americano, veramente dal Canada al Cile, per esempio, rappresenta penso 55% del nostro volume d'affari. Per attraversare l'oceano la questione delle risorse si pone. L'azienda non può autofinanziarsi e si rivolge al sistema bancario, ma con qualche difficoltà. Sistema bancario italiano sicuramente presente, oltre che in Italia, nei paesi nostri limitrofi, geograficamente parlando, ma a malincuore assolutamente assente al di là dell'oceano. E la nostra esperienza è stata per cui quella di riuscire in maniera, penso, molto tipicamente italiana a mettere insieme un qualcosa in maniera probabilmente raffazzonata che potesse supplire a questa mancanza. Faccio un esempio, che è l'esempio più classico. Quando abbiamo aperto questi stabilimenti, noi dismettevamo i macchinari italiani in uso presso lo stabilimento italiano, assolutamente competitivi, non c'era nessun problema, e li trasportavamo, faccio esempio, in Brasile, acquistando dei nuovi macchinari in Italia, dove era facile ottenere dove era più semplice ottenere dei finanziamenti. Comunque devo dire, non siamo stati granché seguiti, ecco. E forse questo un pochino di vanto lo dà, perché abbiamo costruito un qualcosa non tanto utilizzando le nostre risorse, ma forse, ecco, utilizzando il nostro ingegno. Oggi il gruppo è di 1.800 persone tra rete di rivenditori e dipendenti interni, 300 delle quali in Italia. La sede è a Osio Sotto, in provincia di Bergamo. Da qui si sovrintende alle 23 filiali nel mondo. Oltre al Sud America, l'Europa, l'Asia, la Cina, l'Indonesia, l'Australia e, tra i prossimi obiettivi, l'India. Il 2002 è stato un po' l'anno della svolta. Nel 2002 nasce il gruppo Alfa Parf. Prima eravamo tante società distinte. Nel 2002 facciamo questa operazione di organizzazione, nasce per cui il gruppo. In quell'anno, se non ricordo male, il gruppo consolidò circa 60 milioni di euro. Il 2009, per arrivare ai giorni nostri, siamo stati intorno ai 130 milioni di euro, per cui il raddoppio è avvenuto nell'arco di questi 6-7 anni. Il 2010 abbiamo chiuso intorno ai 140-142 milioni di euro. Questo è il business consolidato del gruppo Alfa Parf nell'ambito della cura del capello, nell'ambito del prodotto tricologico. Ma il gruppo ha anche un altro settore di interesse. È un'azienda questa volta non fondata, ma acquistata da un fondo di private equity. Si tratta del gruppo GTS. Nel 2004-2005 abbiamo iniziato una timidissima esperienza nel campo della cura del corpo, e devo dire che in 4-5 anni ha dato delle discrete soddisfazioni. Per cui, quando siamo venuti a conoscenza del fatto che questo gruppo, il gruppo GTS, veniva messo in vendita dai fondi che lo detenevano, fondi di private equity, di emanazione bancaria, ci siamo fatti avanti. Ci siamo fatti avanti perché, come le dicevo, avevamo negli ultimi 2-3 anni acquisito questa piccolissima esperienza nella cura del corpo, perché ritenevamo che fosse il giusto complemento nella cura della persona, perché è il marchio leader nel settore dell'estetica in Italia, della cura del corpo, e perché, se posso aggiungere una motivazione a me cara, prima parlavo del volume d'affari del gruppo Alfa Parf, quei famosi 140 milioni indicativamente, per un buon 65-70% sono fatti fuori dall'area euro, per cui noi siamo esposti a tutta una serie di tematiche valutarie. GTS, con i suoi circa 38-40 milioni, erano tutti fatturati nell'area euro, per cui finanziariamente bilanciava un pochino la nostra bilancia valutaria, come dicevo prima, sbilanciata. Il fatturato complessivo è quindi oggi di circa 200 milioni di euro, con prospettive di crescita. Contiamo di chiudere il 2011 fra i 204 e i 205 milioni, e abbiamo una prospettiva 2012 intorno ai 220 milioni. Ora noi siamo padroni del nostro destino, per cui non possiamo dire più nulla se non cercare di crescere. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.